Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti da Deborah Rosciani e Salva Danaio, buona giornata. Stiamo avviandoci verso il fine settimana e magari per qualcuno ci stiamo anche avviando ad un periodo di meritata vacanza. E come ci stiamo avvicinando a questo momento? Per qualche famiglia con un po' di difficoltà, lo sapete, negli ultimi tempi molte famiglie italiane hanno preso ad intaccare i propri risparmi per arrivare alla fine del mese, per le note difficoltà che conosciamo. Chi può però continua a risparmiare magari rinunciando a qualche spesa superflua, e anche queste tendenze le abbiamo raccontate spesso proprio da questo microfono. Questo è un tema importante, però ce n'è anche un altro molto interessante. Chi può risparmiare e decide di investire si trova, succedeva in passato ma succede anche adesso, magari qualcuno che entra adesso nel mondo del lavoro, se è fortunato e quindi riesce a mettere da parte qualcosina, deve farsi aiutare a gestire questo risparmio. Ma l'ingresso in questo mondo non è sempre facile, perché ci troviamo di fronte alle banche, le società finanziarie, i promotori finanziari, consulenti di vario tipo. Sono gli interlocutori che ci troviamo di fronte e a cui affidiamo un patrimonio, piccolo o grande, che è comunque frutto di pazienza e fatica. Spesso non si è sicuri di aver scelto la cosa giusta, e avere di fronte una persona corretta non è anche questa qualche volta una certezza. A volte non siamo realmente consapevoli di dove e in che modo vengono investiti i nostri soldi. Di un senso di sfiducia nei confronti del mondo della consulenza che la crisi finanziaria, lo sapete bene, in qualche maniera ha anche esasperato. E oltretutto ci troviamo anche ad affrontare un mondo che è completamente cambiato rispetto al passato, perché non esiste più alcun porto sicuro per il proprio risparmio. Allora, non voglio deprimervi, ma vogliamo naturalmente volgere anche in senso positivo tutto questo argomento. Noi oggi affrontiamo questi temi consigliandovi, come abbiamo preso a fare da qualche settimana a questa parte, anche una lettura da portarvi sotto l'ombrellone, magari un paio. Oggi ascolteremo punti di vista nuovi che propongono anche modi diversi di osservare queste realtà e percorsi originali per acquistare una maggiore consapevolezza della gestione nel nostro risparmio. Allora io ringrazio e saluto intanto Giuseppe Closa, che è un promotore finanziario, un consulente finanziario, poi magari ci racconterà come preferisce essere definito. Giuseppe, ciao, buongiorno, benvenuto. Buongiorno a tutti. È autore di tanti libri, magari qualcuno non li conosce, però oggi li metteremo a disposizione dei nostri ascoltatori. È autore di Banca Bassotti, manuale di autodifesa del risparmiatore, scritto qualche anno fa, a cui ha fatto seguito La vendetta del risparmiatore e dell'ultima fatica, poi che invece presentiamo questa mattina, tanto per concludere degnamente tutto un percorso che si è fatto. Siamo fritti, un libro che si propone di svelare tutto quello che non ci dicono e di spiegare come possiamo difenderci. Quindi io l'ho voluto invitare perché lo ritengo la sua una figura, un profilo molto interessante, una persona che comunque demolisce molti dogmi della finanza, anche se ci hanno pensato i giornali, insomma tanti osservatori in questi anni ormai non abbiamo più certezza di nulla, ma contemporaneamente continua a fare questo lavoro, per cui ha molti clienti a cui suggerisce come meglio comportarsi e affrontare anche questi mari finanziari in tempesta. Li terrorizza, sì. E dopodiché poi qualcosa farà, immagino che sì. Se sono contenti, se ancora li conserva anche lei, tu mi viene da darti del tuo Giuseppe, perché lo conosco da un po'. Con noi anche Vitaliano D'Angerio, collega di Plus 24 del Sole 24 Ore, perché domani con Plus e con il Sole 24 Ore, Vitaliano, magari facciamolo subito il biglietto da visita, esce uno dei libri del Sole 24 Ore, ci sono queste pubblicazioni che stanno continuando da un po'. Siamo arrivati alla 22esima edizione, al 22esimo numero, scusa. I tuoi soldi, le guide di Plus 24, sì. Domani c'è la scelta del consulente giusto. L'ho scritto con Lucilla Incorvati, uscirà domani, e appunto diamo un po' di indicazioni, suggerimenti su cosa fare, cosa non fare, a cosa fare attenzione nel momento in cui ci si rivolge a un consulente, un promotore, ma anche quando si va semplicemente a uno sportello e ci si trova davanti una persona che consiglia dei prodotti finanziari. Diamo qualche suggerimento, diciamo semplice, e devo dire che abbiamo sentito anche gli stessi promotori, consulenti, abbiamo chiesto un po', perché c'è un po' di guerra fra di loro. Poi adesso Giuseppe potrà darci qualche indicazione. Alza le mani, cosa. Già non vuole dire niente. Sono i consulenti indipendenti, i promotori che dicono non è vero, sì. Non sono indipendenti, sono anche loro di parte, insomma. è un po' questa guerra fra di loro, però abbiamo dato insomma qualche suggerimento per capire come individuare quello giusto e quello che non ti dice: signora, compri questo fondo perché domani poi scade, non c'è più l'offerta. Ecco, sì, quella. Guarda, sai che questo è un grande cavallo di battaglia anche di Giuseppe Closa, sul quale ritorna in tutti i suoi libri. Diffidate del consulente che vi dice, magari chiamando a casa all'ora di cena, tipo alle 8:30, 9, entro domani, guarda, sottoscrivi questa offerta perché è assolutamente vincente, quindi ti impone una firma al volo. Ecco, quello intanto è una prima regola che si può dare. Diffidate di un consulente come questo, Giuseppe. Assolutamente sì. Oggi potremmo aggiungere, siccome questa è una regola valida da tanto tempo, forse da sempre. Infatti, questo vale per il prodotto finanziario, sì, come per tutto, direi. Oggi si potrebbe aggiungere un altro elemento. Quelli che chiamano la sera alle 8 dicendo presto c'è questa cosa, si aggiunge l'aggettivo è sicura. Questa è sicura, e così si invitano, diciamo così, i risparmiatori a sottoscrivere. Temo che non sia molto facile avere qualcosa di sicuro oggi. Esatto. Allora, io naturalmente, come sempre, voglio sentire anche le riflessioni e le considerazioni dei nostri ascoltatori. Ce n'è già uno, Carlo, che sul nostro profilo Facebook scrive tutti i giorni. Ed è molto sintetico, dice: scegliere il giusto consulente, non siamo fritti, siamo frittissimi, però è anche vero che non vorrei essere una qualunquista. Ci sono tante persone che si affidano veramente completamente a molti consulenti, che sono ben seguite, sì. No, Giuseppe, che si fidano completamente, e siete in tanti anche a fare questo lavoro, e non vorrei fare di tutta l'erba un fascio. Assolutamente, vorrei ribattere a questa simpatica, a questa simpatica osservazione con un, diciamo, un proverbio, una citazione che nel libro si trova. Per avere successo, non è mia, ma insomma, dice: per avere successo un servizio di consulenza deve dire al cliente ciò che vuole sentirsi dire. Il che non è sempre la cosa migliore. La cosa migliore. Comunque, qualche volta bisogna essere anche un po' dirompenti nelle riflessioni. Vitaliano, a riprova che consulenti e promotori, la gran parte sono delle brave persone, diciamo. Ci sono i numeri di Assoreti, no? Cioè, praticamente rispetto agli sportelli bancari sono quelli che riescono a contenere i deflussi dalle reti, appunto. Quindi i clienti restano con loro. Per restare con loro vuol dire che sono soddisfatti. Benissimo. Allora, devo dare tutto il vademecum ai nostri ascoltatori per intervenire in diretta, naturalmente, per esporci anche il loro pensiero sul tema di questa mattina. 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Avete anche le altre alternative, le conoscete bene, potete scriverci degli sms al 349-238-6666 e l'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure, come state già facendo, andate ad animare, soprattutto da qualche giorno lo state facendo su ogni argomento, anche tutto il dibattito che c'è sul nostro profilo Facebook, che è salvadanaio-radio24. Tra l'altro c'è anche Siamo Fritti, mi sembra, su Facebook, Giuseppe, vero? Sì. Oltre a questo, poi ho finito di farti questa grande promozione, mi pagherai un caffè più tardi, hai anche un sito che gestisci, bassafinanza.com, e anche questo titolo la dice tutta su quello che tu pensi sui fenomeni che abbiamo visto negli ultimi anni. Sì, esattamente, bassafinanza.com, questo è il sito, nasce quasi 3 anni fa, 2 anni e mezzo fa, io sentivo l'esigenza di scrivere, diciamo, con un ritmo un pochino più veloce di quello che può essere un libro, di dare un'interpretazione mia, personale, ovviamente, con un taglio magari un po' dirompente, come dici, di quelli che sono i fatti, le cose che si sentono, gli spread, gli anti-spread, le manovre, le contromanovre, dare un'interpretazione mia, magari un po' ironica, divertente, cercando poi di spiegare anche, come faccio nei libri, anche in Siamo Fritti, cercando di spiegare un po' quello che succede anche per le persone che magari non sono molto esperte, e magari se uno va sul sito e poi si registra trova anche delle indicazioni, c'è una newsletter, come si chiama, con delle indicazioni magari un pochino più concrete, perché, come dire, se uno va sulla rete trova 10.000 cose, a fare le chiacchiere siamo buoni tutti, ci sono fior fior di economisti e guru che parlano, però poi il tema fondamentale è: ora che si fa? Cioè, io faccio un commento, ti dico la crisi, questo, quello, quell'altro, ma poi la gente alla fine dice: vabbè, è ora che si fa? Cosa faccio con i miei soldi? E dal sito Bassa Finanza è nata questa cosa, perché poi mi hanno chiamato dalla casa editrice, dalla si può dire, a Rizzoli? Poi magari diamo qualche indicazione precisa agli ascoltatori che lo volessero andare ad acquistare, c'è per leggerlo. Simpaticissima editor della Rizzoli che mi ha scritto dicendo: sono mesi che segretamente leggo, anonimamente, leggo Bassa Finanza, c'ho il mal di stomaco, non so se avere il mal di stomaco, il panico o ridere. Mi hanno proposto di scriverci un libro. Giuseppe Closa mi ha offerto proprio l'assist per presentare il primo estratto che abbiamo individuato da questo libro. Parlava di guru finanziari. Allora, Giuseppe, come capita anche a me, come capita a Vitaliano D'Angerio, ci capita molto spesso di frequentare convegni, a me capita di andarli a moderare, ed è proprio in questa circostanza che ho conosciuto Giuseppe Closa, come di andarli a moderare capita a Vitaliano D'Angerio, ed effettivamente noi ci ritroviamo a dover fare gli esperti, e questo già la dice lunga, insomma, su come siamo messi, e ci troviamo anche a dover conversare effettivamente con autorevolissimi esponenti del mondo economico finanziario, che per carità lo sono anche, ma qualche volta non sono in grado di spiegare in termini semplici quello che ci è accaduto in questi anni attorno e perché ci siamo ritrovati in questa crisi. Allora Giuseppe è stato chiamato appunto a partecipare ad un convegno e di subito ne ha approfittato per litigare con il guru della finanza con il quale si doveva confrontare. Peraltro forse eri in una parrocchia, da quello che ho capito leggendo la prima parte del libro, Giuseppe. No, non era esattamente una parrocchia, diciamo che... Eri stato invitato da un prete, da un sacerdote. Aspetta che lo rileggo, lo ripesco un attimo, che non me lo ricordo come si chiama. Padre Graziano. Don Mariano mi veniva. Vabbè. No, Padre Graziano è in realtà è un personaggio di fiction che io ho inventato prendendo però da fatti reali, e nel libro è il curatore del patrimonio dell'Opera Pia Immacolata Addolorata, che naturalmente non esiste, e praticamente lui gestisce, è il tesoriere, gestisce i lasciti delle vecchine con i capelli azzurrini che lasciano il patrimonio all'Opera Pia, e ovviamente non sa assolutamente come gestire questo patrimonio, per cui si rivolge sempre ai consulenti, ai guru e cose del genere. E ovviamente... quindi tu ti sei inventato allora questo confronto con un guru della finanza, che però si è chiuso quasi a botte, se non ho capito male. Il confronto poi c'è stato realmente, si mischia un po' la fiction, i personaggi e la realtà, i confronti e i convegni dove cerco di spiegare delle cose oppure cerco di smontare discorsi incomprensibili di guru, partendo dal presupposto che se uno non riesce a spiegarmi le cose probabilmente non le ha capite neanche lui, no? E quindi cerca di mettermele fumose perché così non capisco, e penso non sono all'altezza e quindi è troppo difficile per me, come fanno i clienti in genere. Sappiamo questa cosa, molti clienti pensano, se non capiscono, pensano che è troppo difficile. E allora, diciamo, diventano un po', gli viene un po' la sindrome, come la chiamo, del cliente penitente, no? Quindi io sto zitto, non faccio domande perché se no vuol dire che è troppo difficile. Questo è un po' il tipico dei guru, chiamiamoli così, che spiegano, fanno cose difficili in modo che così magari nessuno gli chiede, scusi, non ho capito niente. Ecco, però insomma io vorrei adesso far sentire ai nostri ascoltatori come sei stato accolto da questa platea quando ti sei permesso di interrompere tutte le ricette che questo guru stava dando di fronte a questa platea. Sentiamo. Mi guardavano con una faccia da caribù. Non so se avete presente quei bovini ungulati nordici. Ero lì in quella sala a parlare e più o meno la sensazione era questa. Altri invece avevano il tipico sguardo da lemure, quel simpatico animaletto con gli occhi sempre sgranati come avesse appena visto un fantasma. Così parlai qualche altro minuto con aria spettrale, cercando di spiegare perché un quadrilione non è un numero di zio Paperone, ma è un milione di miliardi di dollari. Ripetete con me, un milione di miliardi. Si tratta per l'appunto del quantitativo di prodotti derivati allegramente creati negli ultimi anni e che incombono sul pianeta e che a breve lo faranno tremare. Giovanotto, lei è troppo pessimista. Può darsi, signora, risposi. Ma lei ha un'idea di come e dove sono investiti i suoi risparmi? La signora Pina dormiva sonni tranquilli, secondo lei, dopo l'ennesima rassicurazione del direttore della banca Bassotti, il cui slogan è «Il vostro interesse è già nostro». Stia tranquilla, signora. I suoi risparmi sono in una botte di ferro. Firmi qui, e qui, e qui. La signora Pina mi guardava con occhi da lemure, col terrore che le smontassi qualche certezza. E cosa sarebbero poi questi prodotti derivati? Comunque lei è davvero troppo pessimista. In fondo il mondo va avanti lo stesso. Ci fu subito un applauso. Praticamente mi avevano congedato. Poi naturalmente l'incontro è andato avanti, c'è stata molta curiosità intorno a queste visioni abbastanza originali e molto schiette anche della crisi, perché qualche volta bisogna anche essere, così lo dicevamo prima, molto schietti con le persone, come anche qualche volta cerchiamo di fare in questa trasmissione. Che idea ti sei fatto di questa originalità di pensiero, Vitaliano D'Angeli, no, il Sole 24 Ore? Faccio i complimenti a Giuseppe perché ovviamente rende la finanza più a misura d'uomo, e quindi uno si fa anche una risata leggendo queste cose e le capisce anche in modo gradevole, no? Ironico. Nel nostro piccolo e con meno ironia diciamo un po' le stesse cose, perché in questo libro, per esempio, uno dei consigli che diamo, parlando anche con qualche esperto, è questo: quando non si capisce non bisogna aver paura di fare gli ignoranti, bisogna chiedere di spiegare di nuovo. Il consulente che non, o il promotore o chi per lui non spiega di nuovo, è un cattivo consulente, perché io sono al servizio della persona che ho di fronte, quindi devo rispiegargli la cosa se non l'ha capito. Mi dicevano che addirittura in Inghilterra sono molto avanti da questo punto di vista, perché per far prendere ancora più consapevolezza e coscienza al cliente delle cose che, in cui investire, fanno scrivere di proprio pugno al cliente la clausola. Stanno facendo dei progetti pilota. Si vincolano in questa maniera, insomma. No, più che vincolargli, gli fanno scrivere di proprio pugno la clausola del contratto, in modo tale che scrivendola io prendo coscienza di quello che sto facendo, perché molte volte non si ha consapevolezza di quello che si fa. Che tipo di clausole scrivono, per esempio, mi sto chiedendo? Siamo Giuseppe, fritti, scrive. We are cooked, in inglese. Certo, no, ma mi stavo chiedendo effettivamente, non lo so, magari... Clausole più o meno vessatorie, o di rescissione, di difficoltà di uscire dal contratto. Se non mi ritengo soddisfatto entro un arco temporale dei risultati raggiunti, più vicino, sciogliamo il nostro rapporto più di vicino, fiducia. In Trentino Alto Adige c'è questa ottima associazione di consumatori, la CTCU, che consiglia al termine del rapporto, della spiegazione, della consulenza, di scrivere insieme al promotore consulente una sorta di documento che firmano entrambi. Patti chiari, amicizia lunga. Sì, insomma. In questo modo, con questo documento, si va poi in consulenza banca. Consulenza lunga, magari. Si va in banca e di fatto è come se ci fosse una sorta di corresponsabilità del promotore sulle cose che ha spiegato. Una visione originale anche della MIFID, della quale a lungo parlate nel vostro libro, poi Vitaliano ci ricordiamo, perché effettivamente il mondo della consulenza è molto cambiato anche con l'avvento e la come si dice, l'adesione da parte dell'Italia alla disciplina MIFID, che è comunque un protocollo europeo, poi lo spieghiamo ai nostri ascoltatori, ci ritorniamo. Però su che tipo di consulente hanno bisogno i nostri ascoltatori ce lo facciamo spiegare da Matteo da Como, e sentiamo che visione ha Matteo, il nostro primo ascoltatore questa mattina ai nostri microfoni all'800240024. Buongiorno. Buongiorno, guardi, mi collego a quello che diceva l'ospite. Dal mio punto di vista, il mio consulente, più che spiegarmi un'altra volta se non ho capito una cosa, dovrebbe rispettare quelle che sono le mie decisioni strategiche e darmi un supporto operativo. Sinceramente, guardi, io a volte ho la stessa difficoltà con l'avvocato piuttosto che col commercialista. Mi sembra che ci sia ancora una mentalità tipo Renzo, tipo il cliente che si presenta come Renzo coi due capponi. Allora, il consulente, giustamente lo dice anche la parola, non è un mio dipendente, ovviamente, però nel rispetto dei ruoli è un mio consulente, no? Quindi le decisioni strategiche spettano a me. Io volevo chiedere un consiglio strettamente operativo, perché settimana prossima dovrò vedere insieme a mia moglie il nostro consulente. E so già che andremo a litigare, no? Non a litigare, ad avere comunque delle questioni, no? Perché ovviamente saremo in conflitto di interesse. Io e mia moglie dobbiamo acquistare una casa, no? Si allarga la famiglia, dobbiamo acquistare una casa. La nostra intenzione è di smettere quasi tutti i fondi investiti che abbiamo con questo consulente. In linea di principio so già che, cioè, io capisco che c'è un conflitto di interesse latente, no? Ma anche riguardo alla tempistica di dismettere determinati fondi, nel rispetto dell'opinione, mi fa piacere che il consulente mi dia la sua opinione, ma se io sono convinto che sia il momento di monetizzare, insomma di prendere profitto su determinati fondi, e nel frattempo magari da qua ad un anno, quando avrò bisogno di questi soldi, privilegiare altre modalità di investimento, va bene il confronto e tutto. Alla fine però il consulente deve rispettare quella, ribadisco, quella, certo, che è la mia decisione. Condividere con lei, no, gli obiettivi che lei... Allora, alla fine, no? Se anche non è d'accordo, no, la decisione spetta a me. Allora, io cerco un consulente, se cercassi un socio, cercherei un socio. No, ecco. Matteo, adesso la sua visione... questa difficoltà. Certo, la ringrazio. Allora, ho deciso di fare questo esperimento. Matteo da Como, Giuseppe, il cliente che viene da te la settimana prossima e che dice, tra l'altro ci ho già detto prima, so già che andrò a litigare perché io voglio smontare un po' di fondi sui quali avevo investito in passato, perché adesso le esigenze della mia famiglia sono cambiate, allarghiamo la famiglia, arriva probabilmente un bambino, abbiamo bisogno di una casa più grande e quindi io ho bisogno di questa liquidità per fare l'investimento nel settore immobiliare. So già che questo promotore, chiaramente il consulente a cui si rivolge, insisterà per farmi mantenere le mie posizioni sui fondi. Abbiamo così capito che forse c'è un vizio all'origine di questo rapporto, secondo noi, poi magari Matteo ci potrà anche smentire. Che ne pensi? Ma direi che se uno parte dal presupposto che va dal consulente a litigare, ecco, diciamo, non è uno di quei rapporti rilassanti che possono aiutare a curare cose così importanti come una pianificazione finanziaria con le esigenze che poi cambiano in corso d'opera. Magari uno, appunto, si allarga la famiglia, congratulazioni, è una cosa bellissima, e quindi nascono esigenze totalmente diverse magari rispetto, chi lo sa, a un anno prima, non lo so. Quindi il problema è, non posso entrare chiaramente troppo nel merito, ma bisogna vedere se c'è un errore di fondo all'origine per cui il cliente è andato dal consulente e gli ha detto, io ho un bambino piccolo e fra 6 mesi voglio comprare una casa, faccio un esempio così, e il consulente gli ha detto, sì, benissimo, allora intanto investiamo tutto in fondi Asia, Cina e Indonesia, perché così salgono un sacco, guadagnerai tanto e comprerai la casa. Ecco, qui abbiamo un problema enorme di pianificazione, un vizio all'origine. Altro è se c'è stato, magari c'era una pianificazione corretta e poi è cambiata l'esigenza, quindi nasce il bambino, si decide di comprare una casa magari anche per altri motivi, per investire, diversificazione, i soldi di carta a volte fanno paura, chi lo sa, ci sono tanti motivi. In questo caso può nasce il conflitto di interessi, come diceva giustamente Michele, può essere, hai citato un ascoltatore che diceva, il problema è se uno è semplicemente un collocatore, diciamo un venditore, oppure anche un consulente, perché se sono solo un venditore io guadagno solo sul fatto che tu abbia determinati prodotti, prendo una percentuale su questo, e quindi se mi levi questi prodotti, cioè li disinvesti, penso che sia questo il caso che stiamo dicendo, io non guadagno più. Ecco che lui, probabilmente l'ascoltatore, dice, so che andrò a litigare perché il promotore magari mi dice se mi disinvesti e compri casa io sono fritto. Quindi questo è un sistema che ovviamente non funziona, nel conflitto di interesse. In questo è molto più, diciamo, trasparente un servizio di consulenza. Allora io faccio una consulenza, ti do un servizio, e quindi tu però mi devi pagare anche indipendentemente dal prodotto che ti dico. Faccio un esempio banalissimo. Se io nel 2008, mentre tutti i guru... No, diciamo alla fine del 2007... Mentre falliva Lehman Brothers. Prima. I guru dicevano investite in azioni, comprate fondi Asia-Cina perché tutto è roseo, crescita in peritura. E io invece per qualche motivo, per qualche mio incubo personale, vedevo che stava per, diciamo, crollare qualcosa. Andavo dai clienti e dicevo, vendete tutti i fondi, vendete ogni cosa, stiamo sul conto corrente, perché allora era più tranquillo anche il conto corrente. E io mi trovavo con i clienti tutti contenti, no? Perché poi crollava Lehman Brothers e non gliene fregava niente, perché non perdevano niente, però poi io non pagavo le bollette perché non ci guadagnavo più niente. Questo è un conflitto di interessi di un sistema che evidentemente ha bisogno di evolversi. Ha bisogno di evolversi anche però la percezione del cliente. Quando si diceva prima della consapevolezza del cliente, ha bisogno anche di questo, perché il cliente magari immagina che tutto sia gratis. La gente è abituata ancora, purtroppo, ad andare in banca, dice, sono andato in banca, sono stato un'ora a parlare con un consulente, poi non si sa chi l'ha messo lì dietro il bancone, che formazione ha avuto, non si sa, ho parlato un'ora, non mi hanno chiesto niente. Quindi poi viene da me e dice, facciamo due chiacchiere, prendiamo un caffè, così poi mi dice come investire. Oh, aspetta un attimo, c'è da pagare. Certo, infatti, detta in maniera molto chiara. Tra l'altro, il problema della consulenza indipendente, adesso magari qua chiaramente apriamo una parentesi, la chiudiamo immediatamente, poi ne riapriamo contestualmente un'altra. È difficile fare un discorso lineare quando si aprono tanti spunti, ci presentano tanti spunti. Il mondo della consulenza indipendente, Vitaliano D'Angerio, oggi in Italia a che punto è? Perché in realtà sta partendo con, ci sono molti operatori del settore nel nostro paese, però la percezione che si ha dall'esterno, di questo si lamentano anche molte persone che ci scrivono molto spesso, è che comunque sia un mondo ad appannaggio solo di patrimoni molto alti, di risparmiatori molto ricchi. Ma torniamo al discorso che faceva Giuseppe prima, è una questione anche di costi. È chiaro che se c'è un patrimonio cospicuo, allora si possono chiedere anche delle fee, delle commissioni. Ed è più facile chiederle, no? Perché c'è una questione anche di economia di scala, eccetera. Però ci sono anche dei consulenti illuminati, nel senso che se da me viene il futuro laureando in ingegneria oppure il commercialista brillante ma giovane, eccetera, io consulente devo anche io prendermi un po' di rischi, no? Da imprenditore quali sono, e quindi se vedo questo ragazzo guadagnerà poco adesso, però è un commercialista o un avvocato brillante, guadagnerà tra 4 anni, 3 anni o di più pure, non lo so, e quindi faccio una consulenza, prenderò di meno, però è una persona che se io adesso consiglio bene, domani sarà mio cliente e quindi guadagnerà con me, io guadagnerò con lui. Quindi, come dire, anche il consulente deve prendersi qualche rischio, va bene pagare, ma anche i rischi dell'impresa ci devono essere. Però insomma poi è una professione che ha anche tanti aspetti, come dire, di natura emotiva, anche la vostra, non è che si tratta di essere un operaio, con tutto il rispetto, che sta dietro ad una catena di montaggio. Comunque se si sceglie di fare una professione di questo tipo, si sa dal principio che si ha a che fare con delle persone che devono essere anche gestite da ogni punto di vista, anche emotivamente, perché immagino, Giuseppe, che cosa non potrà essere accaduto a voi negli ultimi anni. Ci sono stati dei momenti difficili? Persone che sono venute da te e hanno detto: guarda, fammi un po' riportare tutto di nuovo sotto il materasso perché non ne voglio più sentir parlare. Con Lehman Brothers e Lehman Brothers in avanti ci siamo spaventati tutti. Ma guarda, il problema che giustamente citi non è purtroppo un problema di fammi portare tutti i soldi sotto il materasso, eccetera. Qui c'è un problema di sfiducia non verso i consulenti o i promotori o semplicemente le banche. Qui abbiamo un problema di sfiducia verso il sistema finanziario in tutto e per tutto. Quindi lo vedrei un problema, un rischio di problematica più grande. E poi naturalmente ci sono delle persone che hanno emotività e quant'altro, questa sicuramente va gestita, però dipende sempre, secondo me, dal fatto di come puoi operare. Ad esempio, io naturalmente non voglio entrare nella dinamica promotori finanziari e consulenti indipendenti, per carità, se no arrivano 100.000 email e cose del genere. Quello che posso dire, ovviamente l'hai detto tu, che io sono un promotore finanziario, quindi lavoro per un intermediario, diciamo, lavoro per una banca. Che però, diciamo, distribuisce prodotti che appartengono a diverse case di investimento, per cui, diciamo, la figura del promotore, il monomandato, quello che vende l'unico prodotto, anche questa sta quasi scomparendo nel nostro paese. Esattamente, è una dinamica naturale che deve andare a scomparire. E io posso dire che lavoro per un intermediario con il quale posso sentirmi indipendente, cioè io posso consigliare qualunque cosa, anche di stare sul conto corrente, diciamo così. Quindi formalmente io posso fare qualunque cosa. Dopodiché nasce il problema di come rendere remunerativa questa indipendenza. Allora, se l'intermediario poi si attrezza in modo da dare al promotore o al consulente, come lo vogliamo chiamare, la possibilità di ottenere una remunerazione anche per un servizio, cioè anche slegata dalla vendita, dalle commissioni di gestione dei fondi o di ingresso, quello che si vuole, allora questa indipendenza poi diventa molto molto più ampia. Lei ha dei clienti che hanno solo dei giardinetti di titoli di Stato, per esempio? Da tempo no. Vitaliano, due cose flash molto molto semplici. C'è molta più richiesta del cosiddetto budget per quanto riguarda i direttori di agenzie. Ogni giorno mi risulta vengono chiamati dai loro capi: hai venduto questo stock di obbligazioni, hai venduto queste cose, e in base a questo vengono legati anche i bonus del direttore. Ma che sono sempre meno, adesso il problema è che la banca ha bisogno di far raccolta forse più che incrementare i bonus. Sono stress interessatissimi. Ci ho parlato settimana scorsa con uno di, insomma, di un paese, non dico quale, ma mi diceva veramente: io non ne posso più, pensando di cambiare lavoro, proprio perché non ce la faccio più. La seconda cosa, questa pressione. Sì, pressione fortissima. Seconda cosa, veramente, a proposito della fiducia che diceva prima Giuseppe, è chiaro che quando tu vedi a livelli di manipolazioni di indici come possono essere un LIBOR, addirittura l'Euribor, no? Noi ne parliamo domani su Plus. Ti ringrazio, invece noi lo facciamo settimana prossima, Salvadanaio. Come faccio io ad aver fiducia quando so che il mio mutuo è agganciato all'Euribor e l'Euribor o anche all'LIBOR è formato dalle banche che mi vendono il mutuo? Non è possibile, c'è una questione anche di concorrenza, di antitrust su queste cose qua, perché io qualche dubbio devo averlo sul fatto che chi mi vende il mutuo poi fa anche il prezzo del mutuo. Giuseppe Closa. No, posso aggiungere una cosa? Demoliamo pure i mutui. Per rasserenare gli animi, assolutamente. Sì. No, ti prego, guarda, assolutamente. Ti invito, anzi, ecco. Perché il LIBOR, la cosa particolare buffa del LIBOR, che in realtà si sa da mo' che è manipolato. Che è manipolato, poi viene fuori ora, eccetera. La cosa simpatica del LIBOR è che è il parametro di riferimento non solo per i mutui, eccetera, eccetera, ma per prodotti finanziari, derivati, opzioni e cose del genere, che pare ammontino nel mondo a 500 trilioni. Infatti. I trillions sono questi numeri nuovi, che sarebbero 500 mila miliardi. Quindi lo dico per rasserenare gli animi. Non solo, noi domani spieghiamo anche che non solo, c'è anche dei derivati come i famosi CDS, no? Da cui poi si vede l'affidabilità di uno Stato, eccetera, anche questi hanno come sottostante l'LIBOR. Quindi alla fine una manipolazione di questo tipo sta andando a catena su tanti altri indici. Mi viene da dire, abbiamo cominciato a parlare di tutto questo nell'estate del 2007, siamo nell'estate del 2012, siamo ancora qua, però ecco, questa è una magra consolazione, non è nessuna conclusione, è solo una amara presa d'atto di una situazione. Fermi lì, Massimiliano da Parma, buongiorno, è un po' così scettico rispetto a quello che diceva un ascoltatore precedente che parlava di una non tanto condivisione con il proprio promotore, il proprio consulente delle sue esigenze, ma lui dice: io sono risparmiatore, io ci metto il denaro, io ci voglio mettere la decisione finale a prescindere da quello che mi viene suggerito. Massimiliano, ma lei questa impostazione non la condivide, perché? Non la condivido, intanto buongiorno a tutti. Buongiorno a lei. Volevo anche dire una cosa, che mi fa piacere che si parli di conflitto di interesse anche in funzione di dipendenti bancari di banche tradizionali, perché sembra che solo i consulenti o i promotori finanziari abbiano questa situazione. Ritornando sull'argomento, la cosa secondo me che dovremmo riflettere è chi è che si farebbe curare da un medico che prescrive le medicine che vuole il paziente e non quelle che lui ritiene corrette per il paziente stesso. Io ho rinunciato anche a vendite quando sono stato in palese disaccordo su scelte che volevano fare dei clienti, e questo mi ha salvato anche da situazioni a volte incresciose, come in passato Cirio, Parma, Latta Parma. Io ho rinunciato a tante vendite di azioni e di obbligazioni Parmalat, ma questo mi ha salvato. Ce lo raccontano anche molti altri suoi colleghi, Massimiliano, effettivamente così. Quando l'erba del vicino è più verde, il cliente arriva e dice: ma insomma, quello ha guadagnato tanto con questi prodotti perché tu, che sei il mio promotore finanziario, non mi hai suggerito di fare certi investimenti. Giuseppe, vi mettono anche in difficoltà così? Assolutamente sì, ma l'ascoltatore ha pienamente ragione. Questo è il coraggio della consulenza, cioè ci vuole il coraggio per fare la consulenza. Se il cliente dice: voglio questo, io ti rispondo: no, questo non te lo do. Ci vuole il coraggio, perché mi espongo. Certo, magari si rinuncia anche a una parte di guadagno, naturalmente. E insomma, prese di posizioni molto coraggiose. Ferruccio da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ma io mi sono rivolto a una delle banche che vanno per la maggiore, per gli investimenti, eccetera. Ho parlato con un operatore finanziario e tra le altre cose gli ho chiesto di un fondo etico. Questa persona intanto sembrava cadere dalle nuvole. Poi, dopo qualche giorno, mi ha presentato una lista di fondi vari, tra cui ha detto che c'era anche un fondo etico, e dice: è uno di quelli che investono nelle aziende dell'acqua, così. Allora l'ho guardato e ho detto: ma scusi, le aziende che investono nell'acqua sono quelle, per esempio, contrarie al referendum che si è fatto qua a Milano. E quindi, come al solito, ne sapeva più lei del consulente. Ma poi addirittura le ho detto: ma scusi, ma allora se io voglio investire in Emergency, lei mi offre le aziende che costruiscono le mine? Cioè, ma siamo fuori qua. Com'è finita questa trattativa, Ferruccio? L'ha spuntata lei o l'ha spuntata il suo consulente? Quella cosa lei si è arresa subito, nel senso che ha accettato il fatto, diciamo, della sua ignoranza sulle cose. Sì, va bene, ma essere ignoranti è una cosa. Sì, però qui si tratta di non aprire neanche un giornale, insomma, quanto da qualche parte, che quelli vengono inseriti all'interno dei fondi etici, a me sembra che, insomma, mancanza di spirito critico, ecco, come minimo. A parte il fatto che consulenti che ti dicono che hanno 3.000 fondi a disposizione, quindi non sono vincolati a niente, poi uno va a vedere, una parte di quello che si investe viene retrocesso alla banca. Allora c'è quello che retrocede di più, c'è quello che retrocede di meno. E quindi è chiaro che crediamo che, insomma, che sia questa cosa qui sia indifferente, ecco. Ferruccio, lo sappiamo bene, guardi, sia Vitaliano D'Angelio che Giuseppe Closa annuiscono questa mattina tutti i temi che l'industria conosce molto bene, gli operatori del settore conoscono molto bene, purtroppo conoscono molto meno bene invece i diretti interessati, i risparmiatori. Allora, tra l'altro, ci sono anche tante altre esperienze che vorrei raccontare sulla finanza etica. Da qualche giorno a questa parte alcuni operatori del settore, alcuni appassionati del tema, stanno scrivendo tantissimo su Facebook. Chiara Bannella dell'ufficio stampa di Banca Etica, ve lo dico, sta continuando a pubblicare delle cose sul nostro profilo, fra cui anche un sito vizicapitali.org dove si spiegano vizi privati e pubbliche virtù, tra parentesi, delle nostre banche. Vitaliano D'Angelio, cosa ti suggerisce il caso dell'ascoltatore? Che cos'è, intanto, per spiegarla a chi non lo sa, la retrocessione di cui parlava appunto l'ascoltatore? Un operatore vende un fondo di investimento, e quindi cosa vuol dire? È il guadagno, quello che diceva prima Giuseppe, no? Il guadagno del promotore in questo caso. Cioè, se io vendo uno strumento finanziario, dov'è che guadagno? Guadagno nella retrocessione che mi fa la banca. Quindi la qualche società, banca, per esempio, anche se intermedia per esempio fondi di diverse case di investimento, sì, la banca guadagna diversamente a seconda Il consulente guadagna diversamente. Infatti, giustamente diceva l'ascoltatore, se c'è la banca che mi retrocede di più, tenderò a vendere i fondi di quella banca. Poi dall'altra parte c'è anche un discorso etico da parte dello stesso consulente, ma anche di tenersi il cliente. Se io al cliente non gli faccio un portafoglio fatto bene, no? Che quindi quando ci sono situazioni come spread, Lehman e compagni, il portafoglio non regge a quest'urto e quindi perdo soldi, il cliente se ne va. Allora va bene da una parte la retrocessione più o meno maggiore, ma è giusto anche che gli venda il prodotto migliore, in modo tale che il cliente sarà più soddisfatto, resta con me e continuerà a guadagnare. Allora vi leggo anche qualche messaggio. Se avessi disponibilità, ci racconta Valentino, io investirei solamente in terra, campi e boschi, perché il futuro sarà lì. E questa è un'altra visione della quale prendere atto. Bucolica, direi. Io mi fiderei di un consulente che accettasse un compenso solo sui profitti, quindi evidentemente quando magari un gruppo di fondi di investimento vanno tutti in perdita, non vi vogliono compensare. Giuseppe Closa, questa è una cosa è un altro bel dibattito che però è da tempo che si fa sui fondi. Sì. Questa è una cosa simpatica che però è un po' bucolica anche questa, secondo me, perché sarebbe come andare dall'avvocato, dal commercialista e dire: allora si fa questo, se poi vinci ti pago, se non no. E l'avvocato ti manda saluto, perché dice: io comunque ho delle spese per fare determinate cose. Questo è il numero uno. Numero due, il rischio di pagare solo sui profitti, si rischia di spingere a fare delle scelte più azzardate, perché se non ho profitti non guadagno. L'unico investimento sicuro è da sempre l'immobile, non si sa quanto varrà, ma di certo esisterà e lo si potrà toccare, così come tanta parte del libro di Giuseppe Closa è dedicata ad un'analisi sul tema dell'oro e appunto sul tema degli investimenti sicuri e quella che è la nostra percezione di questi. Pochi minuti di tempo ancora. Giuliano D'Ancona, lei fa il consulente da 30 anni, voleva portarci la sua esperienza, non abbiamo tutto questo tempo. Una breve indicazione su appunto quello che le è successo in questi anni. Buongiorno a tutti. Rapido, perché siamo in chiusura. Ok, niente, volevo solo fare un distinguo su quello che è stato detto prima tra i consulenti e i promotori che hanno budget o chi non ce l'ha. Io lavoro da 30 anni per una struttura che non mi ha mai dato budget, non sono mai stato budgettato, e gli unici interessi che ho fatto sono quelli dei miei clienti. Questo ve lo posso assicurare, come ve lo possono assicurare tutti coloro che fanno questo lavoro da tanti anni con un codice deontologico dove si mette il cliente, che è quello che ci dà il pane, al primo posto. Quindi non sono d'accordo su quelli che dicono siamo costretti a dare dei prodotti solo perché su quelli che guadagniamo. Certo, no, beh, non è d'accordo, però Giuliano, sono cose che capitano, perché guardi, siamo pieni di testimonianze su questo. A me qualche giorno fa ha scritto un altro ascoltatore, sempre su Facebook, un'esperienza lunga, lunghissima, sua suocera è andata in banca, hanno lottato fino all'ultimo perché l'operatrice voleva per forza collocare quell'obbligazione, e appunto alla fine è riuscito a capire che effettivamente c'era un budget da a cui arrivare per soddisfare le esigenze appunto di questa filiale. Ci sono tanti messaggi. Mia zia, 83 anni, digiuna di tutto, ha un investimento alle isole Cayman o simile, conto al Credito Italiano, ma chi difende gli anziani? Ecco un'altra zurrina, Giuseppe Closa, che è stata gabbata dalla finanza. Queste però sono delle esperienze tristi, dovremmo imparare a tutelare almeno queste persone. Va bene, io allora, sì, solo una cosa, Italiano, oltre a Bassa Finanza e ai libri di Giuseppe, segnalo che noi come Plus abbiamo anche lo sportello reclami per i risparmiatori, che è molto seguito. Chi ha avuto delle, insomma, ha avuto, è stato gabbato oppure non riesce ad ottenere determinate cose dalla sua banca, può rivolgersi a noi, plus@ilsole24ore.com. Grazie molte, grazie a Vitaliano D'Angerio. Domani Plus 24, l'inchiesta Libor e Euribor, e poi come scegliere il consulente giusto. Giuseppe Closa, che ha scritto Siamo fritti. A quando il prossimo, Giuseppe? Ci stai già lavorando? Dopo l'estate. Sì, dopo l'estate. Intanto leggete questo. Grazie, grazie a tutti. Salvadanaio torna lunedì. Buon weekend.